Sapete che quando c'era il Beit HaMikdash c'era tutto un aspetto della vita ebraica che è quasi, non totalmente, ma quasi sconosciuta a noi oggi. Parto dall'archeologia. In tutti gli scavi archeologici che si effettuano soprattutto a Jerusalem, nella città vecchia ma anche nei dintorni, si trovano nelle abitazioni o nei pressi delle abitazioni delle vasche che fungevano da mikve, da bagno rituale, come si dice, spesso si traduce mikve con bagno rituale. Perché se ne trovano così tanti? Perché effettivamente al tempo del Beit HaMikdash faceva parte della vita di tutti i giorni di sia uomini che donne l'idea del essere attenti alla purezza e all'impurità, perché c'erano delle funzioni e molti aspetti della vita ebraica che erano limitati a chi si trovava in uno status rituale, in uno stato rituale di impurità, come per esempio l'accesso al Beit HaMikdash, l'alimentarsi di certi tipi di cibo che hanno uno status di Kedushah o di Korban e così via, richiedevano uno stato che per la Torah è considerato Tahor, stato di Tahara, cioè di purezza. Ed era qualcosa che effettivamente era molto sentito nella vita delle persone, ecco, anche l'archeologia ce lo dimostra con letteralmente centinaia di mikvaot che si trovavano, secondo alcuni storici, secondo alcuni studiosi, addirittura ogni abitazione ne aveva uno. Quindi la cosa è estremamente misteriosa, qual è il significato di tutto ciò, e non è per nulla semplice. Perché ne parliamo oggi? Perché 5 delle 8 situazioni che sono legate all'impurità, 5 di questi 8 sono discussi nella parasha che leggeremo questa settimana. In realtà sono due parashot unite, che sono Tasria e Mezzorà. E quindi forse questa è l'occasione per mettere un po' a fuoco di cosa si tratta e cosa, che lezione ne possiamo trarre anche noi, anche oggi e in tutti i tempi. C'è una domanda. Sì. Qual era la caratteristica o quali caratteristiche doveva avere una vasca per poter essere chiamata mikve e non vasca? Allora, questa è una domanda importante. Diciamo che non voglio approfondire troppo perché andiamo fuori tema, però il discorso in parole molto brevi è che l'acqua del mikve deve essere considerata un'acqua viva. Cosa dire un'acqua viva? Diciamo l'ideale più elevato è quello di un'acqua che scorre direttamente dalla fonte e uno si immerge direttamente nelle acque della fonte. Ovviamente questo non è sempre possibile, ci sono anche altre acque che sono kasher per un mikve in maniera automatica, come le acque di un mare, uno che si immerge nel mare come se fosse un mikve. Acqua piovana che piove, che viene giù con la pioggia, e ci sono molti criteri per far sì che non perda quello status, ok? Quindi acqua piovana, se tu lo metti in un bicchiere e poi lo metti in una vasca, non è più valido per un mikve, okay. Per dire, deve andare diretto nella vasca, che poi può diventare un mikve. E quindi normalmente le vasche che erano mikve contenevano acqua piovana che è stata raccolta nella maniera idonea. Okay. Questo per dirlo proprio in maniera molto molto breve. Quindi è importante il contenuto, non il contenitore. E no, è importante anche il contenitore, perché il contenitore deve rientrare in molti criteri, perché deve ritenere esattamente quell'acqua che è giunta lì in quelle maniere richieste, e garantire che non ci sia uno scambio con altra acqua, certo. E altre garanzie, altri punti su cui magari si può fare una lezione su quello in una prossima puntata. Allora, innanzitutto, quali sono le situazioni che rendono un uomo o una donna impuri? La prima cosa che dobbiamo mettere a fuoco è la seguente. Quando parliamo di purezza e di impurità nella Torah, non stiamo parlando di qualcosa di logico. Cioè qualcosa che razionalmente a livello umano uno dice questo è puro e questo è impuro. Non stiamo la Torah non dà motivazione, quindi bisogna cercare di scindere totalmente da questo discorso tutto ciò che riguarda pulizia, igiene, non ha nulla a che vedere con ciò che noi chiamiamo tumah, impurità, o dall'altra parte tahara, purezza. Infatti per poter immergere in un mikveh bisogna che il corpo sia totalmente pulito. Non ci può essere alcun tipo di, non solamente di sporcizia, ma qualsiasi elemento che possa costituire una separazione, si chiama chazitza, letteralmente separazione tra le acque del mikve e la pelle, il corpo della persona. Okay, quindi l'immergersi in un mikve richiede una preventiva totale, assoluta pulizia. Questo per dire che non è, come molti credono, un discorso di igiene o di pulizia e così via. È qualcosa di spirituale ed è qualcosa che la Torah non spiega, cioè è qualcosa che rientra in quella categoria di mitzvot che si chiama chukim, chok, cioè inspiegabile alla mente umana, o almeno la mente umana non arriverebbe a captare la logica divina che c'è dietro. Nonostante ciò, vedremo, il Rambam scrive proprio questo. Il Rambam scrive, vi cito delle parole del Rambam dal suo compendio di leggi, delle norme che riguardano proprio il mikveh. Lui scrive alla fine di tutte queste norme le seguenti parole. È chiaro che tutta la impurità e la purezza di cui si parla nella Torah sono dei decreti della Torah. Per decreti lui intende dire qualcosa che è come se fosse un decreto per cui non c'è motivo umano, razionale, e non sono tra le cose che la mente dell'uomo può capire. Fanno parte appunto dei chukim, come dicevamo. Anche l'immersione nel mikveh, che toglie lo status di impurità, è ugualmente un chok, perché appunto, come dicevo, l'impurità non è una sporcizia o qualcosa che può essere eliminato attraverso l'acqua. Nonostante ciò, scrive sempre lui, è bene trovare delle allusioni, ovvero trarre delle lezioni per la nostra vita, tratte dalle leggi, anche queste leggi qui, trovare in questi insegnamenti della Torah delle allusioni che possono avere un senso come motivi di crescita spirituale per noi. Quindi c'è da distinguere tra la motivazione, alla quale non potremmo arrivare, e l'allusione alla quale ci potremmo aggrappare in qualche maniera per trarre una lezione per noi, per la nostra crescita personale. Va fatta questa distinzione perché è importante. Vuol dire, non abbiamo la presunzione di dire io ho capito a cosa ha pensato HaKadosh Baruch Hu perché ha fatto questa mitzvah, ma d'altra parte HaKadosh Baruch Hu vuole, i Chachamim ci insegnano che è bene che noi comunque ci chiediamo quale può essere un remez, cioè un'allusione, quale può essere una lezione che potremmo trarre da questo. Questo sì, questo è positivo, è ben visto. Ok? Allora, quali sono le situazioni effettivamente che portano ad uno status spirituale di impurità? La prima, che è la prima... Sì, bravo. Allora, vogliamo leggere, fare questo limud, questa lezione, in Leilui Nishmat, per il bene dell'anima di... Graziano di Nepi. Settimio Shabbatai Sermoneta. Alisa Cohen. Angelo Moscato. Renato Piperno. Roberto Bracci. Elisheva Badiamante Moscati. E Bellina Salmoni. E anche in merito della Refuah Shelema di Amedeo Yedidia ben Yolanda, che a Kadosh Baruch Hu gli dia una pronta guarigione. Ora, quali sono le situazioni? La prima di cui si parla proprio all'inizio della prima delle due parashiot che leggeremo, Tazria, è quella di una donna che ha partorito. Una donna che ha partorito, la Torah dice, che rimane con un certo tipo di impurità per 40 giorni se ha partorito un maschio e per 80 giorni se ha partorito una femmina. Approfondiremo tra un po'. Il secondo tipo di impurità è un mezzorà. Cos'è un mezzorà? No, mezzorà. È vero che è legato, però mezzorà vuol dire chi ha la zarat, lebroso, cosiddetto, perché non è una vera lebbra, è una cosa, un fenomeno spirituale, che a causa... La pelle. Sì, la zarat era un fenomeno che poteva apparire o sulla pelle della persona, o sull'abito, o sulle mura della casa. Sulle mura. Sulle mura della casa. Tutto questo è esposto nella parasha della settimana. E quindi non era una lebbra nel senso medico del termine. Era qualche cosa di spirituale, un fenomeno miracoloso, spirituale, che appariva a causa di alcuni peccati. Soprattutto la Lashon Hara, il parlare male di altri. E questo portava anche se il Kohen definiva ciò che vedeva sulla pelle o sulla casa, eccetera, come Zara'at, allora vi era uno status di impurità, anche Tumà, dalla quale poi si usciva fuori con il modo che la Torah descrive. Questa è la seconda cosa. La terza cosa è un uomo che ha una fuoriuscita di seme, questo lo rende uno status di impurità, Tumà, che sia una cosa naturale o che sia per una malattia. Uguale per una donna con una perdita di sangue, ugualmente, che sia per un ciclo naturale o per una malattia, ugualmente c'è uno status di impurità. E tutti questi sono esposti nella parasha che noi leggiamo. Poi ci sono altri tre che sono in altre parashiot, di cui una è, anzi alcuni sono, anche, no scusa, anche due di questi sono nella nostra parasha, la nevelà. Nevelà vuol dire la carcassa di un animale kasher, che sarebbe stato kasher se sarebbe stato shachtato, ma che invece è una carcassa che è morto in un'altra maniera, non attraverso la shechita. Questa carcassa, il contatto nostro con la carcassa ci rende impuri. Sì? Ti anticipo che non ho preparato la domanda, che l'altro invece è l'ebreo morto. Oh, questo era l'ultimo, sì, bravo. Allora, la domanda mia, scusami, sì? Ma com'è possibile che si dà più importanza a un animale che a un uomo? Perché se il morto è goi, non è impuro, non dà impurità, mentre l'animale che è impuro, l'animale che è morto dà impurità. Non ogni animale, però. Solo animale. Anche questo, ci sono due cose. Uno è l'animale che avrebbe potenzialmente la possibilità di essere kasher, ma non, alla fine non è stato shachtato, ok? E quindi non tutti gli animali. E poi c'è un'altra categoria, che sarebbe stata la settima, ci sono otto specie di animali brulicanti, si chiamano nella Torah, cioè Shrazim. No, no, Shrazim sono altre cose. Shrazim, cioè, per esempio, il, come si chiama? Il verme, non brillo. Sì, ma in questo caso non è il verme, per esempio, le lucertole, anche le quelli che i gatti prendono, come si chiamano? I topi. Sono otto specifici, sì. Akbar, bravissimo. Sì. No. Akbarim. Shmone Shrazim. C'è un capitolo nel trattato di Shabbat che parla di Shmone Shrazim Amurim Batorah. Quindi se io sto a contatto con un topo, di regola diventerei impuro? Morti. Ah, morti, ok. E l'ottavo... Siamo tutti impuri? Siamo comunque tutti impuri. Avrei fatto questa premessa in realtà prima, adesso la faccio. Però l'ottava categoria è l'uomo morto, che chiaramente è uno status di impurità, essere in contatto anche sotto lo stesso tetto, sotto, è per questo che i Kohanim sono più limitati nel contatto col cimitero, con la morte, eccetera, perché il Kohen anche oggi deve fare attenzione a questo. Noi non siamo obbligati a fare attenzione a questo. Quindi faccio questa premessa, appunto. Non è un divieto diventare impuri, è semplicemente il conoscere il proprio status e ci limita per certe cose, per esempio per l'accesso al Bet HaMikdash. Non avendo in questo momento il Bet HaMikdash, è chiaro che siamo meno attenti a certe cose, ma non è un divieto trovarsi in uno status di impurità? Cioè non è una vera... Non è, una non è vietato! Allora, una donna che partorisce diventa in uno stato di tumà. Anzi, ha fatto una mitzvah. Partorire, a fare un figlio è una mitzvah, no? Per dire, ti ho fatto questo esempio per spiegarti che non c'entra... Spesso si associa nella nostra mente lo stato di impurità con l'aver fatto qualcosa di male. Beh, o la zara è una punizione. È una soluzione, però... Sì, si è fatto la è più una segnalazione. Una segnalazione. Che una punizione diretta. La tzarat viene con uno stato di impurità, ma non che la tzarat stessa è... Va fatta questa premessa perché appunto bisogna distinguere tra ciò che è una trasgressione o una verà, un divieto, e ciò che è la tumà. La tumà può capitare che ci si trovi in uno stato di tumà. Appunto è anche vero che noi tutti ci troviamo in uno stato di tumà, soprattutto quello che è legato alla morte. Perché chiunque è mai stato in un cimitero o in un ospedale o in qualsiasi situazione che siamo tutti stati, siamo impuri alla morte, tumat met, e non abbiamo modo di purificarci. Andare al mikve non ci rende puri da questo tipo di purezza. Ogni categoria di impurità ha un modo, un antidoto, un modo per diventare puri, e non tutti questi modi sono a nostra disposizione oggi. Cioè il mikve ci rende puri da certi tipi di impurità, ma non dall'impurità della morte. Lì serve tutta la storia della vacca rossa, le ceneri, eccetera, che è un korban, che oggi non abbiamo, non c'è il Bet HaMikdash, non ce l'abbiamo questo. E non è che siamo meno ebrei o meno importanti perché non ce l'abbiamo, è semplicemente lo status in cui ci troviamo ora. E quindi siamo condannati a uno stato di impurezza. Per questo dico, non è una condanna. Questo sto cercando di sottolineare. Non è un divieto, è non un è una condanna. È uno status di essere. Che è irreversibile. In questo momento è irreversibile. Quello che noi dobbiamo capire è come trarre da questo una lezione a livello metafisico, a livello più dell'anima, di cosa vuol dire per noi nella nostra vita quotidiana, al di là dell'aspetto pratico che non sempre è applicabile in ogni momento. Ok? Allora, ecco. Abbiamo visto le varie situazioni, una donna partoriente, un topo morto, cioè non è che c'è legame tra tutte queste cose, ok? Allora per capire, cose si fanno serie, eh? Allora per capire, vi cito un'altra cosa strana e poi entriamo un po' nella spiegazione, sembra strana. Dicevo, una donna che ha partorito, no? Una donna che ha partorito è obbligata poi a portare un korban, un sacrificio, un'offerta. La donna o il marito? La donna. La donna? Sì, sì. E che tipo di korban è? C'è un korban olah, che viene completamente consumato dal misbeach, e un korban chattat. Cosa significa un korban chattat? Chattat vuol dire, viene dalla parola chet. Chet vuol dire peccato. Che peccato ha fatto, come dicevo prima, che peccato ha fatto una donna che ha partorito? Per quale motivo deve portare un korban chattat? E la Gemara si pone questa domanda, anzi la Gemara cita gli allievi di Rabbi Shimon Bar Yochai, che gli pongono questa domanda e gli dicono, Rabbi Shimon Bar Yochai, per quale motivo la partoriente deve portare un korban chattat? E lui dice, ascoltate, quando una donna ha le doglie del parto e attraversa delle grandi sofferenze, giura o fa un voto che non farà più figli. È una cosa inimmaginabile la sofferenza. E per questo la Torah dice, e poi si pente. E poi torna a casa con questo bellissimo pacco, così carino e così, eccetera, eccetera. E dopo un po' di tempo passa, non ci tiene più a quel vuoto. Allora è come se lei dovesse portare questo Corban per sciogliere quel vuoto, per andare contro la parola che lei ha dato. La parola è sacra, la parola va rispettata, però si può sciogliere un vuoto, no? Come un khatat, per dire, per aver parlato in maniera eccessiva, facendo un vuoto rispetto a quello che in realtà sarebbe stata la sua, il suo vero volere, no? Questa è la risposta che dà Rabbi Shimon Bar Yochai. Anche se in generale le korbanot che la donna porta dopo il parto è anche un'espressione di gratitudine, è anche un senso di ringraziare per quello, anche per aver sopravvissuto, anche per aver portato alla luce il figlio, la figlia, eccetera. Però c'è anche questo aspetto qui. Comunque questo non ci spiega, e ancora non abbiamo trovato allusioni, per quale motivo c'è l'impurità dopo il parto, che differenza ci può essere tra quello causato dalla nascita di un maschio, che è minore di tempo rispetto all'impurità causata dalla nascita di una femmina, perché è doppio tempo. E la Torah dice, no? 80 invece di 40 giorni. E questa è una cosa che bisogna capire. Vediamo se riusciamo a trovare qualche allusione. Allora, ho sentito una storia che condivido con voi, un breve aneddoto, che è successo durante il periodo della Prima Guerra Mondiale. Durante il periodo della Prima Guerra Mondiale c'era nella Lituania un membro della comunità, adesso non so che città era, che si chiamava Denis come cognome. E lui era un uomo d'affari molto importante, perché aveva grande successo negli affari, era molto benestante. E lui manteneva molte yeshivote, molte opere di Torah e di Tzedakah, eccetera. Però quando è scoppiata la guerra, le autorità hanno confiscato tutti i beni di tutti i grandi ricchi e l'hanno presi per il bene della guerra, e quindi è rimasto senza niente. E per lui diceva sempre, la mia vera ricchezza sono le mie due figlie e i miei due generi, che già erano sposate le figlie, cioè questi sono i veri diamanti, perché chi erano i suoi generi? I suoi generi erano dei grandi maestri di Torah, ed erano tra i capi di una delle yeshivot famose nella Lituania, c'è una famosa yeshiva lituana, la yeshiva di Telz, che ancora esiste oggi, che derivava da lì. Qualcuno ha chiesto a uno dei maestri di quell'epoca, Rav Yitzchak Elchanan Wasserman, che poi è stato ucciso dai nazisti nella seconda guerra, com'è che questo uomo ha avuto il merito di avere per le sue figlie due generi così grandi di Torah? Qual era il suo grande merito? Allora gli ha detto, vi racconto io un'esperienza personale che ho visto, per capire quale poteva essere il merito di questa persona. Allora dice, era un giorno di inverno lì in Lituania e io sono entrato da lui. Rav Yitzchak Elchanan Wasserman aveva tante opere di Torah e di Tzedakah. Era quello contro Israele? Eh? Era quello contro lo Stato di Israele? Wasserman, non è quello contro lo Stato di Israele? No. No, non è lui. Wasserman? Non credo. Non mi sembra. Comunque era un giorno invernale pieno di neve e ghiaccio, e chiaramente sapete, la neve è molto bella quando si scia, però se tu ce l'hai in città è tutto nero, è tutto fango, è tutto problematico. E quindi sono dovuto andare da lui a parlare con lui per sostenere alcune cose che stavo facendo. Però lui aveva una casa, era prima della guerra, una casa molto bella, tutte le ricchezze, eccetera. Non volevo sporcare con il fango, con gli stivali, con la neve, il ghiaccio, eccetera. Allora sono andato, invece di bussare alla porta centrale, sono andato a lato, c'era la porta che usavano i, come si chiama? Domestici. I domestici. E sono entrato da lì, la porta dava direttamente sulla cucina, era dal retro, dal lato, e non volevo camminare su tutti i bei tappeti, eccetera, no? Ok. Ho bussato alla porta, le due figlie erano ancora bambine piccole, e hanno aperto e sono andati a correre a papà, papà, papà, con tutte contente, è arrivato il rabbino, è arrivato il rave, papà, vieni. Ok. È arrivato e ha visto il Rav in quella porta dei domestici che dava sulla cucina e si è messo a piangere, ha detto Rav, no, no, no, deve uscire subito e non può rovinare l'educazione che sto dando alle mie bambine. Cioè, che ho fatto? Dice, no, no, no, vai, fai il giro e entra dalla porta centrale. Dice, no, ma io non volevo rovinare qui, sporcare. Dice no, io l'educazione che sto dando alle mie figlie è che la cosa più importante è il rispetto per la Torah, per le mitzvot, per chi rappresenta, per i rabbanim, i chachamim, eccetera, e tutte le cose di questo mondo non hanno nessun valore rispetto a questo. Se lei entra dalla porta dei domestici per non sporcare la casa, vuol dire che io in qualche maniera credo che queste cose hanno più importanza rispetto alla sua presenza. Invece non è così. Per me non è così, e l'educazione che voglio dare alle mie figlie è questa, che se il Rav deve entrare, il suo fango è più importante dei miei tappeti. Entri per favore dalla porta principale. E ci ha tenuto proprio che lui lo facesse. Allora ha detto, ecco, adesso potete capire come ha meritato questa persona che le sue figlie sposassero dei grandi chachamim, che non era solamente la sua ricchezza, ma anzi, proprio il modo in cui lui ha capito a cosa serviva quella ricchezza e che cosa erano le cose importanti davvero. Perché racconto questa storia? Perché nell'educazione, cos'è l'educazione? Quello che noi vorremmo trasmettere ai nostri figli, alla prossima generazione, trasmettere a loro i valori, quali sono le cose davvero importanti e quali sono invece le cose meno importanti. Possiamo parlare di questo, ma lo dobbiamo vivere per poterlo davvero trasmettere. E non solamente lo dobbiamo vivere. Se noi vorremmo trasmettere volume 5 di qualcosa, per tanto fare un esempio, allora dobbiamo vivere a volume 10. Se viviamo quella cosa a volume 10 al 100%, allora possiamo sperare che il 50% sarà trasmesso. In altre parole, chi è educato da noi deve vedere che per noi la cosa è estremamente importante, quella strada nella quale li stiamo educando. Perché chiaramente, e lo sappiamo tutti, non è che il figlio, il bambino, ascolta a quello che dicono i genitori, vede come vivono. Parlare non ha tutto questo valore rispetto a quello che è l'esempio di vita. Questa cosa la troviamo anche in quello che abbiamo fatto da poco, abbiamo fatto il Seder di Pesach. E il Seder di Pesach apre ovviamente tutto accentrato sulla presenza dei bambini, le domande, la loro curiosità, eccetera, eccetera, tante cose che facciamo strane per risvegliare, suscitare la loro curiosità. E Manishtana, le quattro domande del Seder. Le quattro domande del Manishtana mettono a fuoco alcuni dei punti più importanti che sono strani, tra virgolette, che fuoriescono dalla normalità nella sera del Seder. Se noi pensiamo, quali sono queste quattro domande? Tre di queste quattro domande si occupano di importantissimi elementi del Seder, degli obblighi di quella sera, e cioè la domanda che riguarda il fatto di mangiare matzah, la domanda che riguarda il fatto di mangiare il maror, l'erbe amare, la domanda che riguarda la halakha di mangiare appoggiati sul lato, adagiati. Queste sono Halachot, questi sono obblighi della sera del Seder. Qual è la quarta domanda? Queste sono tre, qual è la quarta? Vi ricordate? Bravo, qual è? Cosa vuol dire afilu pam achat? Cosa una volta sola? Si intinge una volta sola. Benissimo. L'intingere, normalmente intingiamo una volta sola, e questa volta intingiamo due volte. Intingiamo il karpas, il sedano, dentro la cosa, nell'aceto, nell'acqua salata, e l'arbamara dentro il karos. Dove è l'obbligo che è scritto che bisogna intingere? Da nessuna parte. Ovviamente fa parte della sera del Seder, certo che diventa un halakha, un obbligo, ma qual è la fonte di questa cosa? È un minag, è un'usanza che nasce proprio per far risvegliare, come dicevo, la curiosità dei bambini. Non può essere posto sullo stesso piano delle altre tre che sono degli obblighi veri e propri. E nonostante ciò fa parte del Manishtana. Ma forse non è nonostante ciò, è proprio per questo. È proprio perché spesso sono i minagim, cioè i comportamenti che non sono necessariamente dettati in maniera assoluta dall'Alaha, ma fanno parte della vita ebraica e diventano una parte della famiglia ebraica. Queste sono le cose che tengono la famiglia, che tengono, portano alla continuità, che i bambini amano e che anche in generale le famiglie amano di più. Le cose che sono le usanze delle famiglie o delle comunità specifiche o del modo di fare. Per questo esistono anche i midrashim, in parte. Sì, dipende cosa intendi per midrashim, questo è già un altro discorso. Ci sono alcuni midrash, tra virgolette, più adatti ai bambini. Sì, diciamo, sì, assolutamente. Storielle che... Oh, bravo, perché midrashim in realtà non vuol dire storielle, a questo volevo arrivare. Però questo è già un altro discorso. Quando noi educhiamo i nostri bambini... Uno potrebbe pensare, ok, l'ebraismo ha così tanti elementi, puntiamo su quelli più essenziali, su quelli che sono proprio, tra virgolette, dogmatici, no? Obbligatori, voluti dalla Torah, e tutto il resto poi vediamo se abbiamo tempo, se abbiamo voglia, se abbiamo possibilità, le usanze, le cose, le sfumature, eccetera, no? Il Manishtana ci insegna che non è così, bisogna dare importanza forse soprattutto a queste cose. Che sono come la colla, un collante che unisce tutto. E allora torniamo al discorso della Tumà. In particolare il caso che dicevamo prima della donna che partorisce. Un maschio ha un determinato tempo di impurità e la femmina ancora di più. Per natura... Se Dio vuole, spero che vi auguro di saperlo anche voi presto, che diventerete, se Dio vuole, genitori. È più facile per un padre educare una figlia e una madre educare un figlio. Spesso c'è un rapporto più vicino col genitore del sesso opposto. È così? Perché? Perché un padre maschio si rivede nel figlio maschio, allora è più rigoroso, perché come se fosse rigoroso con sé, ed è anche come se psicologicamente volesse mettere a posto delle cose che lui ha sbagliato nella propria infanzia o nella propria vita o nella propria gioventù. Uguale per la donna, uguale per la femmina, che nella figlia lei si rivede più di quanto si rivede nel maschio. Il maschio è tutto carino, ma la figlia è... Mi medesimo nella figlia, uguale il padre si medesima nel maschio, la femmina è solo carina e basta. Allora la donna che nell'educare sua figlia, che poi diventerà a sua volta, se Dio vuole, una madre, deve in un certo senso impegnarsi di più. Richiede un'introspezione ancora più profonda. E qui siamo di nuovo nel mondo dell'allusione, come dicevo prima. L'impurità più lunga nel tempo dopo la nascita di una femmina rispetto a quella che dopo la nascita del maschio è come se fosse un'indicazione o un'allusione per noi che lì in quel caso la donna, ma di nuovo ripeto, l'idea è valida anche per l'uomo con il maschio, ha un impegno maggiore, si deve in qualche maniera liberare da qualcosa, che ci si deve liberare dall'impurità, si deve liberare da certi tipi di pensieri, da certi tipi di impedimenti che possono rendere più difficile quel rapporto. Ora vedremo come ci si libera da questo tipo di problema, dopo un altro passaggio che faremo. Prima di fare quell'altro passaggio, volevo citare un grande maestro dei Rishonim, dei primi commentatori, che si chiama il Sefer HaChinuch, già l'avevo citato qualche volta. Sefer HaChinuch scrive riguardo tutto questo concetto di Tumah Vetara, di purezza e impurità, e di nuovo sempre nel mondo dell'allusione, la Torah dice, alla fine della parasha scorsa, Shemini, sempre riguardo la Tumah, l'impurità, velotti tameu bahem, non rendetevi impuri con queste cose che bisogna non rendersi impuri, venit metem bam, perché appunto vi renderanno impuri, sarete resi impuri da essi, venit metem bam. Ora, la parola tame, facciamo un attimo attenzione, la parola tame in ebraico si scrive con una ale finale, un alef muta, però c'è un alef. La parola tamè, la radice è tet, mem, alef. Tuma, tet, mem, alef, hei. C'è l'alef sempre. La Torah scrive venit metem, omettendo l'alef. Ci sarebbe un alef, per la regola, ma non c'è. I Chachamim si chiedono per quale motivo la Torah toglie questa alef, perché sul Sefer c'è scritto venit metem senza l'alef. Dice perché senza l'alef si può leggere anche in un'altra maniera e c'è un messaggio in questo, in quest'altra parola. Non è bisogno di una tet. C'è la tet, non una taf. Quello sarebbe solo una taf. Questo è stato bello perché vi do una cosa e intanto vi ritorna l'altra. E questo è di latte, ok, vabbè. E venitam tem. Venitam tem. Ti gusterai. Non c'è una ain. Però ti dico un'altra parola che è simile in ebraico moderno. Avete mai sentito uno israeliano che chiama un altro metumtam? Deficiente. Cosa è il significato della parola metumtam? Vuol dire letteralmente, non come nel giudaico romanesco, ma vuol dire chiuso letteralmente. Cosa vuol dire deficiente? Cioè, la mente è chiusa. Ok? Venitem tem vuol dire sarete chiusi. Chiusi nel senso il cuore, la Torah, i Chachamim dicono, la Gemara lo dice nel trattato di Yomah, commenta questo versetto, venitem tem, venitam tem, ovvero l'entrare in situazioni in cui non dovreste entrare, rende il vostro cuore ottuso, crea delle ostruzioni, in questo senso chiusura. In altre parole, per la natura della nostra anima sarebbe aperta a certe situazioni, a certe illuminazioni, se vogliamo, ma il mettersi in situazioni non idonee la rende chiusa, o non chiusa l'anima stessa, ma l'anima si crea qualche ostruzione che divide tra l'anima e quello con cui vorrebbe essere in contatto, diciamo, con la luce di HaKadosh Baruch Hu. Allora, Tumah come qualcosa di chiuso, di pesante. Depressione. Cos'è depressione? Chiusura. Anche. Ostruzione tra te e quello che ti sta intorno. Ottusione. Anche tra te e te stesso. Anche tra te e il vero te stesso, certo, assolutamente sì. Rabbi Yehuda Levi, che è l'autore tra l'altro del Kuzari, famosa opera di filosofia ebraica medievale, dice che tutti gli stati di impurità, tutte le categorie dove c'è un concetto di Tumah, che abbiamo detto prima quali sono tutte legate in qualche maniera a qualcosa che si chiama la morte, mancanza di vita, in qualche misura, in qualche volume, mancanza di vita. Per esempio, ovviamente il cadavere, la persona morta, ma anche alcuni tipi di animali sempre morti. La tzara'at stessa, sono delle cellule morte sulla pelle. Il parto invece. Oh. Il parto indica la cessazione di formare una vita. Se tu hai mai pensato il fenomeno, purtroppo molto diffuso, della depressione postpartum, è legato anche a questo. Certo. Ovvero, durante la gestazione, la donna è in uno stato d'animo normalmente molto positivo. Questo dato, il fatto che sta creando, c'è vita dentro. Dal momento che c'è un vuoto, cioè dopo il parto, c'è come una mancanza di significato, una mancanza di direzione, un sentimento di vuoto, basta quello. Molte depressioni sono legate a un sentimento di essere svuotati, o fisicamente, come in quel caso, che poi influisce anche sul senso e sullo stato d'animo, ma anche se non c'è nel senso fisico, cioè valido sia per l'uomo che per la donna. L'essere svuotati è qualcosa che ha un effetto molto forte sulla psiche della persona. In questo senso è un po' di morte, no? Un po' di mancanza di vita. Il problema è... In questi casi muore proprio una parte di te, tra virgolette. Certo, assolutamente. Cioè quando perdi un affetto abbastanza caro, tra virgolette si può dire che dal momento in cui doni una parte di te a quell'essere o quella persona... Quando perdi il rapporto, e se perdi proprio la persona... Ancora di più, la purezza della morte, l'impurità della morte, non è solamente nella persona che è morta, è anche dentro i cari che hanno perso quella persona, che nel perderla si fanno domande, si fanno pensieri su cosa è il vero significato della vita, sulla futilità di tante cose della vita, su tutta la parte vuota della vita. Quindi il vuoto è anche dentro di sé, non è solo nella persona che è venuta a mancare. E questo, quindi come capostipite del concetto l'impurità della morte, ma che poi trova espressione nelle varie categorie. Vuoi dire qualcosa? No. Ah, no, pensavo. Quindi è questo svuotamento, no? Il famoso commentatore Or HaChaim, Rabbeinu Chaim Ben Attar, famoso commentatore della Torah, autore anche di altre opere, di origine marocchina, lui scrive così sul suo commento proprio sulla Torah, quando si parla dell'impurità della morte. C'è una persona che viene a mancare, Adam Israel, un uomo di Israel che viene a mancare, visto che ha una neshama prima della morte, visto che questa è piena di kedushah, e lui in maniera un po' poetica scrive, è pieno di una kedushah dolce e piacevole, come una brocca piena di miele. Quando si svuota questo miele, quando si svuota questa dolcezza, questa piacevolezza, se tu hai una brocca che era piena di miele e adesso è vuota, ma la metti là, cosa attrae? Di tutto. A parte che il vuoto attrae già di per sé, ma specialmente se era il contenuto era piacevole, era dolce, ancora di più. E attrae tutto ciò che non necessariamente è piacevole, però è attratto da questo bene, ok? Quindi in maniera simile lui dice, tutte le forze spirituali dell'impurità contrapposte alla Kedushah sono attratte nel momento in cui si crea un vuoto di questo tipo. Le forze negative sono attratte dalla Kedushah e dall'impurità. Dalla mancanza di Kedushah. Sono attratte dalla mancanza di Kedushah. Sono attratte dalla Kedushah, ma non hanno accesso quando c'è la Kedushah. Dal momento che la Kedushah, quindi la Neshama, l'anima, la parte sacra, fuoriesce, rimane un vuoto che è subito riempito. Non esiste un vuoto vero, giusto? Quindi un vuoto si crea un vacuum, come si dice? Un risucchio, un canale che fa rientrare comunque qualcosa. Se manca questo, rientra quello. Ecco perché, no, nel senso, quindi, no, nel senso, sì, la Kedusha si contrappone alla, cioè non è Taor Teuma e Tuma, è Kadosh Tuma, questo ti sto dicendo. Non è il puro che si contrappone alla La Kedusha è Tehora, la santità è anche per definizione pura. Ok? Quindi sì, possiamo dirlo in due maniere, o Kedusha e Kelipa, quello che è il termine che si usa normalmente, specialmente nelle opere cabalistiche, per ciò che contrappone la santità, letteralmente vuol dire una buccia, ciò che copre, ciò che è esterno, rispetto a ciò che è invece il contenuto interno della cosa, oppure possiamo dire Tara e Tuma, possiamo usarli un po' come sinonimi. Allora diciamo così, l'allusione generale, molto generica, molto vasta, del concetto della Tumah e la Tahara può essere definita come questa, cioè quella di darci un messaggio che ci dice bisogna cercare di rimanere il più possibile pieni di vita e privi quindi automaticamente di aspetti negativi, depressivi, tristi e così via della vita. E come si c'è questo famoso detto hasidico che qualcuno attribuisce al Baal Shem Tov, che dice è vero che la tristezza non è un peccato, ma ti porta in un posto molto peggiore di qualsiasi peccato che ti potrebbe portare, perché apre a tutto, certo, la depressione, la tristezza, eccetera. E questo è un aspetto, un'allusione generale. Facciamo un ulteriore passo prima di concludere. La Hasidut spiega che c'è un altro aspetto nella allusione che la Torah ci vuole dare con tutto il concetto dell'impurità. Oltre al discorso di depressione o di vuoto di vita, l'impurità, secondo la Hasidut, si può, nella nostra esperienza umana, odierna e sempre valida, si può esprimere in un'unica parola. La parola in ebraico è Yeshut. Yeshut, non so se si può tradurre con un'unica parola, ma quello che si intende per Yeshut è il sentimento di sé. Possiamo dire presunzione, ma non necessariamente presunzione nel senso uno che è molto presuntuoso, uno che si vanta sempre. Proprio il sentimento che si dà troppa importanza a se stessi. Il contrario di Yeshut è Bitul. Bitul vuol dire annullamento. Annullare un po' il proprio ego, il proprio io. Riconosce, abbiamo fatto un po' un approfondimento sull'umiltà, una delle lezioni, no? In questo senso. Cioè riconoscere se sono qui per servire me o sono qui perché servo qualcosa. Questa differenza fine ma molto molto importante e tagliente. Se stessi è più diciamo è più non so come spiegarlo, cioè annullare se stessi non è tanto umiltà, più che altro è mancanza di, no, neanche modestia. Modestia è, non è completamente annullarsi, la modestia è diciamo tralasciare in parte il proprio pensiero pur rimanendo costante col proprio credo, mentre invece quello che si intende per annullarsi credo che sia proprio una questione di mancanza di fiducia più che altro. No, perché mancanza di fiducia? Mancanza di fiducia in sé? Esatto. No, anzi, al contrario, non c'eri quando abbiamo fatto questo approfondimento. È una fiducia nel vero potere del proprio io, cioè che non sei te quello che ha quel potere, ma che ti è stato dato questo potere. Quindi non è un negare le proprie forze, è un indirizzare le proprie forze nella maniera giusta. Non annullare se stessi, ma... Esatto. Se tu sei bravo a... Okay. Dammi un esempio. Assaggi. Tagliate i capelli. fare i massaggi, insomma. Esatto. Ok. Per esempio. Se tu sei bravo a fare i massaggi, allora la domanda è se questa tua bravura diventa uno strumento per rendere te stesso importante nei propri occhi, nei tuoi stessi occhi, oppure se questa tua bravura diventa uno strumento per poter servire a chi servono i massaggi. Certo, questo non vuol dire che non lo puoi fare come lavoro e non puoi essere retribuito e non devi essere un monaco che va a vivere su una montagna. Però, dove lo indirizzi? Fai la stessa cosa, l'atto che metti in atto è uguale. Ma cosa, a cosa ti porta poi quell'atto? A dire, oh, guarda quanto sono bravo, guarda quanto sono importante, guarda quanto sono considerato dalle persone per questa mia bravura. Oppure guarda cosa ho fatto, guarda che cosa, che dono HaKadosh Baruch Hu mi ha dato, grazie HaKadosh Baruch Hu che mi hai dato questo okay. dono, perché con questo posso fare quello che sto facendo. Okay. Quindi la domanda è sulla direzione, sull'indirizzo, non sulla cosa stessa. E questo è come la Hasidut definisce umiltà. Vuol dire chi c'è al centro, ci sei te o c'è quello che deve essere fatto? E che grazie a Dio che io lo posso fare. Questo è uno degli aspetti, no? Ok. Allora, il rimedio alla tumà, all'impurità, qual è? Normalmente è sempre la tevilà. La tevilà vuol dire l'immersione. Prendete la parola tevilà in ebraico e le stesse lettere della parola tevilà, che si scrive tet, bet, Yod, Lamed, Hei, Tevila, vediamo, Bet, Yod, Lamed e Hei, ok? Fai vedere a tutti, Tevila, bene, come? Bravo, mettiamo la Hei prima, poi la Bet, poi la Yod, poi la Tet, e poi la Lamed. E qui leggiamo un'altra parola, habitul, habitul, tevilà, habitul, tevilà in senso, nel senso spirituale vuol dire annullarsi, bitul, quello che dicevamo prima. Fisicamente nella tevilà una persona si annulla, perché la tevilà come deve essere fatta? Non a nuoto, ma immergendosi. Nell'immergersi, quando la persona si trova nelle acque completamente, totalmente, quindi rientra nella questione del pieno che annulla il vuoto. Bravo. E inoltre la persona che sta sotto l'acqua non può essere troppo presuntuosa. Cosa vale la persona che sta sotto acqua? Proprio nel piano più semplice, innanzitutto. Beh. Non hai le tue facoltà in maniera normale, devi comunque, il tuo pensiero non può pensare a quanto sei importante, devi avere altre cose per la mente. Inoltre, quando la persona, il suo corpo è totalmente immerso nelle acque, è come se non ci fosse differenza tra la sua testa, i suoi piedi, le parti alte, le parti basse del corpo, è tutto nelle stesse acque. Tutto è coperto dallo stesso elemento, dalla stessa superficie. Inoltre, il bitul che avviene nel momento in cui la persona si immerge, è come una rinascita, in un certo senso. È come trovarsi, quando la persona si trova dentro il grembo della madre, è come una tevilà, è come una sorta di, si trova in un liquido che lo circonda totalmente, e anche lì non c'è differenza in realtà tra testa, piede, tutto un unico elemento. Quando la persona, il bitul è come la tevilà è come la possibilità di effettuare un bitul, il bitul ha come conseguenza un tipo di rinascita. Così come la tumà rappresenta un po' di morte, la tevilà rappresenta un po' di rivivere, rinascita, vita. Quindi è questa la contrapposizione. Beh, scusami se ti interrompo anche, sì. Non per voler trovare una motivazione terrena, però ecco, la donna che deve fare la donna è un che, ottimo esempio no, la donna che durante il ciclo dopo il ciclo deve fare il mikve, cosa che, succede nel no, ciclo proprio, a parte perde una possibilità di vita a parte quella la perdita della vita si però svuota. Anche, un'altra cosa è il si ciclo svuota. È la rinascita perché ricomincia l'ovulazione esatto. Ma il terzo invece fondamentale è proprio la palingenesi della vita coniugale, nel senso che se io ho la possibilità di andare tutti i giorni con mia moglie, il mio desiderio prima o poi si cala. Questo è un altro aspetto, vero? Se è io vero. Invece ho la possibilità che tot giorni mi è privato. Ah, tu dici che si regenera che anche regenera il rapporto? Il piacere, esatto, certo. Si regenera anche il desiderio. Questo assolutamente. Sì, ottimo punto. Bravo. Bravissimo. Un altro aspetto di cui si parla quando di nuovo torniamo al corban che offre la donna che ha partorito, e c'è scritto che è un corban, tra l'altro corban khatat, cioè come abbiamo detto prima del peccato, non è un suo peccato. È come una espiazione per il peccato di Chavà. No, scusa, ma anche questo lo sapevo. È il peccato originale che ma che ce ne fa? No? E allora? È una cosa dell'uomo, a prescindere allora. Dall'ebreo e... No. Però noi, cioè, noi non ci abbiamo mai avuto il peccato originale. Te la dico in un'altra maniera, vengo da un'altra direzione. I goyim che parlano di un peccato originale hanno preso un concetto da qualche parte. L'hanno un po' corrotto, a modo loro. Ma non è che l'hanno inventato. Okay. Non si è inventato niente. I Chachamim ci insegnano, la Torah ci dice anche molto chiaramente, che ci sono state delle conseguenze al peccato di Adam e Chavà, tra cui le doglie, la difficoltà nel parto, la morte stessa, tutto il concetto di questa mancanza di vita, di questo vuoto, tutto deriva da lì. Allora non usiamo il termine peccato originale perché loro l'hanno preso e visto in tutta un'altra maniera, che tutti sono peccatori, eccetera. Noi non siamo di questa idea. Però è invece vero che il mondo è stato condizionato come conseguenza a quell'atto e noi stiamo in certo senso rivivendo quello che loro hanno vissuto, e con le nostre azioni, anche nel senso cabalistico si usa il termine tikkun, cioè aggiustare. Come aggiustare, no? Rimettere a posto, rimettere in sesto tutto quello che è stato quella che era la situazione originale. Infatti si identifica l'era del Mashiach, l'era messianica, con l'era pre-peccato di Adam e Chavà. Si legano sempre queste due epoche dell'esistenza. E allora la Tevilah di nuovo è un concetto di Bitul. Per Tevilah, come Bitul, come annullamento del proprio, non serve solamente l'immergersi nel mikveh, perché è vero che, come dicevo prima, l'immersione stessa è un'esperienza di Bitul, ma non è sufficiente. Una persona presuntuosa può fare il mikveh e rimanere una persona presuntuosa, non è automatico. Chiaramente bisogna immergere la propria mente nelle acque pure della Torah. Questa è una frase che vi ho citato da Rambam. Il Rambam dice questo sempre quando parla di queste allusioni che esistono nelle leggi della purezza e dell'impurità. Dice che... No, me la ruba. No. Dice che la persona immerge se stessa, la propria mente, nelle acque. Lui usa il termine mei hadda'at hatahor, nelle acque della conoscenza pura, cioè la conoscenza della Torah. Più noi ci immergiamo in queste acque, in queste esperienze, più siamo aperti a quello che la Torah definisce tahara, purezza, apertura, presenza, apertura alla presenza di HaKadosh Baruch Hu, alla luce di HaKadosh Baruch Hu, a questa illuminazione. Entrare nel immergersi è diverso dal bere l'acqua, è diverso dall'immergersi nell'acqua, vero? Ma non è necessariamente solo una questione di quantità. Certo, la quantità aiuta. Vuol dire, se uno dice, io studio la Torah una volta a settimana, no, da adesso in poi la faccio due volte a settimana. Certo, è ovvio che questo incremento ha un effetto positivo sulla persona. Ma non è solamente questo aspetto quantitativo. È anche un aspetto qualitativo. Vuol dire, se ti capita di studiare la Torah, purtroppo riesci a farlo solo per 5 minuti. Ma in quei 5 minuti ci puoi essere totalmente, o ci puoi essere con... perché siccome tra 5 minuti devi fare un'altra cosa, allora già non ci stai in quei 5 minuti. Oppure in quei 5 minuti ci sei, ti ci immergi. Quando è un'esperienza di immersione, cioè ci sei totalmente, allora risulta un uscire da uno stato di tumà, entrare in uno stato di tahara più elevato, e non c'è limite a questo. Sì, la nostra vita è fatta da queste uscite e entrate. Adesso, mentre vi dico questa cosa dell'immersione qualitativa, mi viene in mente un aneddoto che ho letto. Scriveva un Hasid che era... questo succede circa 100 anni fa, il Rebbe Rashab, il quinto Rebbe di Lubavitch, che stava subendo dei dolori. Adesso non ricordo esattamente cos'era la malattia, ma era qualcosa di un dolore, dice, proprio inimmaginabile. E allora il medico veniva a fare delle punture o dare dei medicinali. Ed erano dei dolori che venivano non in maniera... erano come degli attacchi di dolore, no? E quando c'era l'attacco, allora bisognava chiamare il medico e doveva fare del... Allora il medico veniva e faceva quello che doveva fare, e poi il Rebbe doveva rimanere a letto, non si doveva muovere, perché il muoversi o l'alzarsi avrebbe contrastato l'effetto della medicina. Allora praticamente racconta a questo medico che ha fatto queste punture o quello che era, e poi ha detto che adesso devi rimanere sdraiato così per un'ora, quello che è uscito da stanza. Poi è entrato nella stanza 10 minuti dopo e vede che Rebbe è in piedi, sta facendo l'Amidah di Mincha e non ha proprio idea di quello che succede intorno a lui, è proprio totalmente immerso, no? Abbiamo parlato di immersione. Ha aspettato che finisse. E dopo ha detto, ma Rebbe, perché si sta facendo la vita più difficile? Se lei rimane sdraiato, la medicina prende effetto, e invece così il dolore è ancora maggiore. Allora il Rebbe gli ha detto, perché rimanere sdraiato e pensare ai dolori? Se mi posso alzare e pensare a qualcos'altro, e automaticamente il dolore non lo sento. Allora, sembra semplice, però è anche vero che quando ci si occupa davvero in maniera immersiva, tra virgolette, di qualche cosa, è automatico che le altre cose non subentrano in quel momento. Magari potessimo tutti sentire questo in cose di Kedushah. Possiamo, se ci siamo davvero, anzi lo auguro a me stesso in primis e a tutti noi, perché magari per altre cose ci può anche capitare, con il tanto boom, è come se ci svegliassimo dal sonno, stai pensando a qualcosa a cui tieni fortemente, ok? Allora applica questo a quei 5 minuti in cui studi la parasha della settimana, o metti tefilin e dici lo shema, o fai la tefilà. Questi sono dei momenti in cui bisogna immergersi in quello che facciamo. E non ci resta che augurare che potessimo vedere realizzata la profezia che dice che quando verrà Mashiach, dice il profeta Yeshayahu, la conoscenza di Akadosh Baruch Hu riempirà la terra come le acque coprono gli oceani. Cioè si usa di nuovo anche lì la metafora come del mikveh, no? Dell'immersione. Saremo immersi in questa conoscenza. Bimerabbi amenu, amen. Amen. Zak, zak. Zak.